36. Ma che freddo che fa, fuori sta meno 6. Sara dorme di già. La vorrei svegliare, la vorrei ascoltare. Ci vorrei fare l'amore, la farei divertire, senza esagerare. Mica delle ore, e fuori c'è un prete vigliacco che strilla un sermone e non mi fa chiudere occhio, non mi fa pensare. E lui coi suoi prega e spera, col vestito pulito e la barba abbondante, gli occhiali sul naso e il sorriso nei denti, voglio ammazzare, lo vado ad ammazzare. Sono quasi le 3, che mi cragna che c'ho, sarà stato il caffè, oggi ne ho preso un bel po'. Vorrei proprio dormire, vorrei riposare. Tra 3 giorni ho un esame, dovrei anche studiare, senza esagerare. Mica delle ore, che fuori c'è un bel temporale e il vento è in discesa. E Marta è vestita di nero e canta da sola. Prete comincia a nuotare, si sfila il vestito e la barba abbondante e chiede soccorso e nessuno lo sente. Poi Marta mi guarda e fa finta di niente. La voglio sposare, che fa, chissà sarà dov'è, era qui un attimo fa. Vorrei proprio sapere, dovrei andarla a cercare, sarà andata dal prete, sarà uscita a fumare. E io rimango da solo, più solo di un cane, non riesco a dormire, comincio a pensare che sarà la davvero, l'amavo sul serio.